questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese e Giancarlo Ricci. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo, per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Ci sono alcuni amici immaginari di cui in fondo vorremmo prendere il posto, altri di cui invece vorremmo essere solo gli amici silenziosi, altri ancora che ammiriamo e invidiamo. Uno in particolare, quello che incontriamo oggi, lo ammiriamo e invidiamo appunto per il look, per il savoir-faire, per il coraggio e la calma, per il fascino. Non vorremmo essere in fondo lui, ma avere tutto ciò che ha lui, magari con meno pericoli. Ammiro il suo coraggio, Miss Trench. Silvia Trench. E io ammiro la sua fortuna, Mr. Bond. James Bond. Bond, James Bond, sigla 007, professione agente segreto al servizio di Sua Maestà, con un numero identificativo i cui due zeri significano un potere di vita e di morte, la licenza di uccidere. Creatura dello scrittore britannico Ian Fleming, James Bond è il protagonista di una serie di romanzi ambientati nel mondo dello spionaggio, personaggio di fantasia ma con una biografia accuratissima. L'autore infatti indica un anno di nascita, il 1924, da un rappresentante scozzese e da una mamma svizzera. Educazione all'estero, lingue conosciute un'infinità, in particolare inglese, francese e tedesco. Rimasto orfano a 11 anni, il personaggio, dopo la morte dei genitori in un incidente alpinistico, il giovane Bond cresce con la zia. Risultati eccellenti a scuola, anche nel campo dello sport. A soli 17 anni Bond entra nella Marina Britannica, dove fa carriera fino al grado di comandante al termine della Seconda Guerra Mondiale. La Guerra Fredda lo vedrà in giro per il mondo, tra Giamaica e Hong Kong e tante altre destinazioni esotiche, come agente segreto in perenne lotta contro lo SMERSH, il reparto eliminazioni del capo. Un personaggio vissuto nelle pagine dei romanzi di Fleming e reso famosissimo nel mondo dal cinema in un numero notevole di film nei quali James Bond ha avuto il volto di tanti attori diversi. Il suo numero identificativo è 007, dove il doppio zero significa che ha la licenza di uccidere. Il suo nome è Bond, James Bond, il più famoso agente segreto britannico. È nato dalla penna di Ian Fleming, che dal 1952 in poi dedicò il periodo in cui soggiornava nella villa GoldenEye in Giamaica alla stesura delle storie dell'agente. 12 romanzi, il primo è Casino Royale e 2 raccolte di racconti. Dopo la morte di Fleming, la saga proseguirà con vari autori, ma saranno soprattutto le trasposizioni cinematografiche a partire dagli anni 60 a creare la fama di Bond. 22 pellicole con l'agente 007 interpretato da 6 differenti attori. Il primo fu Sean Connery ed è anche quello maggiormente entrato nell'immaginario collettivo. Poi George Lazenby, un solo film al servizio segreto di Sua Maestà. Per 7 volte tocca invece a Roger Moore, 2 i film con Timothy Dalton, 4 quelli con Pierce Brosnan e infine Daniel Craig, secondo i critici il più vicino all'idea che aveva Fleming del suo personaggio. Ironia ed eleganza, questo è Bond, sempre circondato da donne bellissime, luoghi da sogno e auto veloci. James Bond ha attraversato gli ultimi 50 anni con tante caratteristiche costanti e, al contempo, in continua evoluzione dal primo film della serie, in Italia intitolato Licenza di uccidere del 1962. I punti fermi sono abbastanza noti. Prima di tutto le auto, dalle Aston Martin alle Lotus fino alla BMW. Poi i gadget da spia super tecnologici, l'orologio con la sega circolare, gli occhiali da sole a raggi X, le penne pistola, fino al cellulare telecomando per guidare l'automobile come un docile modellino. La sua nuova BMW modello 750 ha in dotazione i soliti accessori, mitragliatrici, blindatura, razzi, sistema di localizzazione GPS. Benvenuto a bordo. Per la sua sicurezza è pregato di allacciare la cintura e di seguire le istruzioni. Ho pensato che avrebbe prestato più attenzione a una voce femminile. Credo di conoscerla. Non nutro alcun interesse per le sue squallide avventure galanti. Passiamo oltre, le dispiace? E il suo nuovo cellulare. Si parla qui, si ascolta lì. Ma guarda, l'ho usato male per armi. Allora, l'apparecchio contiene anche uno scanner per impronte digitali, un sistema per autodifesa da 20.000 volt e un'altra funzione della quale sono particolarmente fiero. Un telecomando per la sua vettura. Pigiare due volte. Uno, due. Poi far scivolare il dito molto lentamente sul disco di controllo per muovere la macchina. E parlavamo di evoluzione nel corso dei 50 anni dei 22 film della serie. Il caso dei gadget tecnologici è significativo. Se gli apparecchi di cui abbiamo sentito poco fa sono ancora futuribili in qualche modo, quelli invece di qualche anno fa, presenti nei primi film soprattutto, fanno quasi tenerezza oggi. Devo dire che, secondo me, questa faccenda di equipaggiarla sul posto per le sue missioni è molto irregolare. Questo è un contatore Geiger, utile e poco ingombrante. La lancetta indica il grado di radioattività, è impermeabile, naturalmente. Naturalmente. Qui c'è una cosa che vorrei lei usasse con particolare cura. Con particolare cura. Tutto quel che lei mi dà è... trattato con lo stesso disprezzo. Sì, lo so, ma questa è una macchina subacquea che fa 8 fotografie in rapida successione appena si preme questo pulsante. È così straordinario. Se riesce a fotografare all'oscuro con pellicola infrarossa, sì. Qui abbiamo una pistola Very in miniatura. Che spara un razzo rosso, un segnale di soccorso. La porti con sé giorno e notte. L'insinuazione è offensiva. Ora faccia attenzione. Nel caso non avesse a portata di mano un autorespiratore, può usare questo aggeggio. Per brevi periodi, naturalmente, diciamo 4 minuti. Ingegnoso. Me ne procuri qualcun altro. Stia ancora attento. Ho una recente invenzione, un innocuo apparato radioattivo. Innocuo? Che invia un segnale di posizione a uno speciale ricevitore. E cosa dovrei farci con questo? Beh, evidentemente... inghiottirlo. L'universo di James Bond è quello di una spia di gran classe che vive in alberghi di lusso, viaggia per il mondo e si sposta con auto meravigliose. Ed è attorniato da donne, tantissime donne, donne che seduce, che cercano di ucciderlo, oppure entrambe le cose. E poche, pochissime donne che non finiscono nel suo letto. Tra queste, Miss Jane Moneypenny, segretaria del capo di Bond. James, dove diavolo eri finito? Ho dovuto rastrellare Londra per trovarti. 007 è qui, signore. Ti riceverà fra un minuto. Moneypenny, che novità? Dì, che cos'è questo affetto improvviso? Tu non mi porti mai a cena vestito così, James. Tu non mi porti mai a cena, no. Punto e basta. Ah, lo farei, lo sai. Solo che M mi farebbe processare per uso illegale di beni dello Stato. L'adulazione non ti servirà a nulla, ma continua a provare. You can see so much in me that's new. Moneypenny, Miss Jane Moneypenny, la signorina è l'assistente personale di M, il capo di Bond, e il prototipo della perfetta segretaria, informata ma discreta, leale, efficiente e intelligente, oltre che attraente. Infatuata, se non innamorata di Bond, flirta con lui ogni volta che viene convocato all'ufficio di M, di solito all'inizio o alla fine di un'avventura, o se deve essere contattato per telefono. Sembra capire e coprire 007 meglio di chiunque altro. James, cos'è lì dietro? Mi hai portato un souvenir? Cioccolatini? Anello di fidanzamento? Ho pensato che l'avresti gradito. Che romantico. E so già dove lo metterò. Oh, Moneypenny, proprio come la nostra relazione. Un buon sigaro che non si fuma. Maybe I'm an open book because I know your mind. Se il Bond per eccellenza è Sean Connery, la Miss Moneypenny più nota è l'attrice canadese Lois Maxwell, che ha interpretato la segretaria nei primi 14 film della serie. Amica di Roger Moore prima di essere sua partner sul set, ha sempre detto che avrebbe voluto lui come marito e Connery come amante per un weekend. Dal 79 al 94 ha anche tenuto una rubrica sul Toronto Sun con lo pseudonimo di Miss Moneypenny. Caroline Bliss è stata la Moneypenny di Timothy Dalton, Samantha Bond quella di Pierce Brosnan. Saranno questi ultimi gli unici a scambiarsi effusioni, anche se solo simulate da un paio di occhiali speciali dell'agente segreto. Nell'unico film della saga non prodotto da Broccoli, Casino Royale del 67, è Barbara Boucher a sedere alla scrivania. Miss Moneypenny è anche il titolo di una canzone dei Placebo. L'amico immaginario. Bentornati all'amico immaginario. Gold finger. He's the man with the Midas touch. Torniamo nell'universo di James Bond e scopriamo un altro personaggio sempre presente nei libri e nei film dell'agente segreto più famoso al mondo, il capo di Bond, M, un'altra figura chiave del mondo di 007. Interpretato da vari attori, è l'unico personaggio ad aver cambiato sesso nel corso degli anni e da un film all'altro. Buonasera, signora. Per essere esatti, sono le 3 del mattino. Lei quando dorme, 007? Mai quando sono in servizio. Si segga. Le sarà consegnata all'aeroporto una serie di documenti informativi aggiornati in una borsa ad autodistruzione. Li studierà durante il viaggio. Si levi la giacca e dia la sua pistola. Me lo immaginavo, la solita maledetta pistola. Io gliel'ho già detto una volta. Glielo dica lei per l'ultima volta. Carina e leggera in una borsetta femminile. Impatto insufficiente. Qualche commento, 007? Non sono d'accordo, signore. Uso questa pistola da 10 anni e non ha mai mancato un colpo. Forse no, ma lei si è inceppata l'ultima volta. Lei ha passato 6 mesi in ospedale. Il doppio zero della sua sigla la autorizza a uccidere, non ad essere ucciso. Nome in codice M. Al secolo il direttore dell'MI6, il servizio segreto britannico, cioè il capo di Bond. Nei romanzi di Fleming e in alcuni dei successivi, M è l'ammiraglio Miles Messervy. Vedovo, passa tutta la sua giornata nell'ufficio al Universal Exports, una società di copertura del servizio segreto, all'ultimo piano di un palazzo che dà su Regent's Park a Londra. Nel fine settimana gioca a bridge. A succedergli sul lavoro sarà Barbara Moseley, prima donna ad assumere questo ruolo. Nessuna carriera militare, ha studiato giurisprudenza a Oxford, è divorziata e ha 2 figli. Caratteristica comune di chi copre questa posizione è la fiducia in Bond, nonostante i dubbi sui metodi poco ortodossi di 007. Non mi sembra contenta di vedermi. Fosse dipeso da me, lei sarebbe ancora là. La sua libertà ci è costata molto cara. Zhao. Quell'uomo ha cercato di impedire un summit tra Corea del Sud e Cina. Ha ucciso 3 agenti cinesi prima di essere catturato. E ora è fuori. Non ho chiesto io lo scambio. Sarei morto in prigione pur di non farlo liberare. Aveva il suo cianuro. L'ho gettato via anni fa. Che significa questo, M? Una spia americana infiltrata nell'alto comando nordcoreano è stata giustiziata qualche giorno fa e gli americani sono certi che l'informazione veniva dalla sua prigione. E secondo lei com'è andata? Con tutte le droghe che le hanno dato non può sapere cosa ha detto o non ha detto. Conosco le regole. La prima dice niente negoziati. Se ti catturano sarai abbandonato. La missione era andata male. Moon mi ha scoperto con una telefonata. Aveva un complice in Occidente, anche suo padre lo sapeva. La stessa persona che mi ha incastrato si è mossa per liberare Zhao e io andrò fino in fondo, gliela farò pagare. Lei andrà invece al nostro centro di valutazione nelle Falkland. La sua licenza 00 è revocata. Insieme alla mia libertà? Sì, finché lo riterrò necessario. Tomorrow never dies. Al cinema, M è il dipendente del servizio segreto più presente dopo Bond. Manca soltanto in Agente 007 Solo per i tuoi occhi. Il film è del 1981, anno in cui morì l'attore Bernard Lee, storico interprete dell'ammiraglio Messervy, fin dal primo film. Lo sostituirà a partire dal 13° film della serie Robert Brown. Attualmente in servizio c'è Judi Dench, dama dell'impero britannico e premio Oscar per Shakespeare in Love. Ha già firmato il contratto anche per i prossimi 2 film della serie. James Bond è una figura profondamente maschile, con quei tratti eleganti che però non nascondono la virilità, quasi il macismo, soprattutto nelle prime pellicole della serie. Il rapporto con le donne è un po' a senso unico, indirizzato sull'inequivocabile strada sessuale. Per intenderci, difficile immaginare un'amicizia platonica tra Bond e una qualsiasi donna. A dimostrarlo una lunga schiera di bellezze da copertina, tutte incredibilmente affascinanti e quasi tutte rapite dal fascino del nostro agente segreto, le cosiddette Bond Girl. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only I never need to hide. Bikini bianco, coltello in cintura, conchiglia in mano, Ursula Andress esce dalle acque del mare. La prima Bond Girl non si scorda mai. È lei il modello per tutte quelle che l'hanno seguita da quel 1962 in poi. Bond Girl è il termine con cui vengono definite le ragazze dell'agente segreto nei libri e nei film, e per estensione viene chiamata così anche l'attrice che di volta in volta le interpreta. Un club esclusivo in cui si entra spesso da sconosciute per il grande pubblico, a cui si resta iscritte per la vita e talvolta ci si resta incastrate. Il fascino dell'agente 007 colpisce in ogni avventura e spesso le signore passano dalle fila dei nemici di Bond a quelle dei suoi alleati. La pistola non serve, comandante. Forse, dipende da che cosa intendi per sesso sicuro. Il contatto è eccessivo. Non per quello che ora ho in mente di fare. Oh, tu credi di potermi fare del male, eh? Adesso basta giocare. Belle, anzi bellissime, sexy, esotiche, internazionali, quasi tutte fanno una brutta fine. Muore completamente ricoperta d'oro Jill Masterson in Missione Goldfinger, film in cui appare la cattiva Pussy Galore, interpretata da Honor Blackman. Poi Jane Seymour, Kim Basinger, Halle Berry, che riprende i panni della Andress, Carole Bouquet, Corinne Clery, Cassandra Harris, Sophie Marceau, Barbara Bach, poi moglie di Ringo Starr, la casalinga disperata Terry Hatcher, Eva Green, l'amata Vesper, le ultime Olga Kurylenko e Gemma Arterton, Grace Jones e Madonna, anche interpreti della colonna sonora. Infine, fra le italiane, Daniela Bianchi in Dalla Russia con amore, Luciana Paluzzi in Thunderbolt, la ragazza dei sigari, Maria Grazia Cucinotta, e Caterina Murino, l'affascinante Solange di Casino Royale. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. A spider's touch. Nel penultimo film della serie, Casino Royale, la Bond Girl è appunto italiana. L'attrice e modella Caterina Murino, sarda di Cagliari, una carriera in piena ascesa. Il suo punto di vista, da Bond Girl ovviamente, sul rapporto di 007 con le donne. But don't go in. Oh, I think all the women in the world, they always fall in love to the impossible man. Penso che tutte le donne del mondo si innamorino sempre dell'uomo sbagliato, quello che c'è per una notte e poi non richiama più. Io penso che James sia un po' uno di questi uomini, duro, pericoloso, intelligente, viaggia per il mondo, conosce le lingue, tutte cose che alle donne piacciono. Il problema è che non ci si deve innamorare di James Bond. Si conquista il suo corpo, mai il suo cuore. That's the problem, you know. They give her his body but not his heart. Non ci sarebbe James Bond senza la fantasia e la capacità letteraria di Fleming, ma 007 non sarebbe forse così popolare senza il cinema. La popolarità regalata al nostro amico immaginario dal grande schermo è impagabile. Facciamo un po' di storia del Bond cinematografico con un vero esperto dell'argomento, Mauro Gervasini, giornalista e critico del settimanale Film TV. James Bond diventa un mito globale con il primo film, Licenza di uccidere, e soprattutto con il terzo, che è Goldfinger. Con Goldfinger, che è del 64, nasce la vera e propria Bond mania, poi ci saranno tutti i fenomeni di replica del personaggio sotto mentite spoglie. C'era stato, a dire la verità, già un momento di gloria notevolissimo al tempo dei romanzi, Ian Fleming comincia a scrivere del personaggio all'inizio degli anni 50, però c'era stato, dicevo, un momento di gloria perché da poco l'unico eletto presidente, Kennedy disse che sull'isola deserta, fantomatica e famosa, avrebbe portato due libri, La Bibbia e Dalla Russia con Amore. E quindi lì ci fu effettivamente, si cominciò a dire, ma che cos'è Dalla Russia con Amore? Quindi molti si interessarono a questa produzione letteraria, a questo tipo di genere spionistico. Però indubbiamente gli anni 60 dal punto di vista cinematografico sono gli anni di James Bond, sono gli anni di Sean Connery, che è stato l'attore che per primo ha incarnato la figura dell'agente segreto e che per moltissimi rimane inimitabile, insomma. Voglio la verità. James, mi fai male! Farò anche di peggio se non parli. Tu obbedisci a degli ordini, lo so. Quali sono? Non so di cosa parli. Oh, certo. Tu puoi uccidermi se vuoi. Io non so niente, niente. Forse non è molto quello che sai, ma quello che è certo è che devi dirmelo subito. Io so che ti amo, James. Ti amo. Su, dimmelo. Ti amo, è vero. Meglio. James Bond è uno, ma al contempo è tanti. Cambia con il volto dell'attore chiamato a interpretarlo. Gli ingredienti principali restano gli stessi, ma il tipo di fascino assume sfumature diverse. Macho con Connery, ironico con Roger Moore, sfrontato con Pierce Brosnan, tanto per fare tre esempi. Ancora Mauro Gervasini. Gli attori hanno avuto l'intelligenza, a mio parere, di dare ognuno un'interpretazione molto diversa del personaggio. È lampante la differenza enorme che passa tra un Connery e un Roger Moore. Del resto lo stesso Roger Moore ha sempre detto, se Sean minaccia di morte qualcuno è credibile, io sono più credibile se lo invito a bere un cocktail. Quindi insomma lo ha caricato di un'ironia diversa rispetto a quello che era stato il prototipo, ripeto, per molti inarrivabile del primo personaggio. James Bond è un personaggio che nasce dalla penna di Fleming in piena guerra fredda. Il personaggio letterario non è per nulla ironico, è anzi molto freddo, visceralmente anticomunista, molto britannico anche nel rapporto che ha con gli altri, persino con gli alleati, non ama gli americani, parla male di tutti. Britannico nonostante lui sia, il personaggio letterario sia in realtà di padre scozzese e di madre svizzera, quindi non è inglese, James Bond non lo è nemmeno nella raffigurazione letteraria. Quindi Sean Connery da quel punto di vista lì, anche dal punto di vista della scozzesità, è stato assolutamente calzante. Il personaggio poi nel cinema un pochettino queste cose si abbandonano per motivi di distensione con l'Unione Sovietica. Nei primi romanzi i nemici sono i russi e non ci sono altre divagazioni. Poi con Thunderbolt subentra questa fantomatica Spectre che vuole un pochettino distogliere da quello che però era l'obiettivo principale, cioè il KGB e in particolare questa sua sezione che si chiamava Smertspionam, che esisteva veramente, che era un po' il controspionaggio, i sicari che dovevano uccidere le spie. L'amico immaginario. Bentrovati all'amico immaginario. James Bond, matricola 007 con licenza di uccidere e di spendere, è un uomo che ha tutto. Certo vive ad alto tasso di pericolo, ma la sua esistenza procede nel lusso sfrenato, quello che quasi tutti gli uomini vorrebbero provare almeno una volta nella vita. Torna il sentimento dell'invidia per lo stile di vita, fatto di auto, alberghi da mille e una notte, i gadget tecnologici, i mille paesi esotici visitati, per gli orologi, insomma per tutte le cose che possiede e a cui quasi non dà valore. Dal taglio dell'abito è andato a Oxford o un posto simile e pensa che il genere umano si vesta davvero così, ma lo indossa con un tale disprezzo. Lei non viene da una famiglia facoltosa, i suoi compagni non le hanno mai permesso di dimenticarlo. Quindi è andato in quella scuola grazie alla benevolenza di qualcun altro, da cui il carattere attacca brighe. E dato che il primo pensiero su di me è stato è orfana, direi che è lei che lo è. I servizi segreti cercano giovani emarginati, sempre pronti a sacrificare gli altri pur di proteggere la regina e la patria. Sa, quegli ex militari della SAS con il sorriso facile e l'orologio costoso. Rolex. Omega. Bellissimo. Oh, James Bond trascina con sé l'idea stessa del lusso, quello che indossa Bond, l'orologio che ha al polso, il drink che beve, l'albergo in cui sceglie di dormire, tutto ha il marchio del lusso. Da qui deriva un elemento non secondario nella storia cinematografica di Bond, la caccia al marchio e alla sponsorizzazione, Aston Martin, BMW, Omega e così via. Mauro Gervasini, giornalista e critico del settimanale Film TV. Non è secondario, ma è stata una conseguenza inevitabile, perché sin dai primi film, dai primi due o tre film, quindi Licenza ad uccidere, Dal rosso con amore, Goldfinger, il feticismo degli oggetti è sempre stato caratterizzante il personaggio, a partire dai gadget, no? Gli avveniristici gadget che la sezione Q produce a James Bond per uscire dalle situazioni più disparate. E naturalmente lì si è cominciato a intuire che questi oggetti o oggetti simili che potessero avere delle caratteristiche, insomma, in qualche modo eccezionali, potessero diventare anche o potessero essere assimilati a oggetti di consumo, quindi che si potessero vendere, comprare. Allora magari anche orologi che non hanno la lama rotante, però sono di marca, di una marca riconosciuta, e uno li compra pensando che in qualche modo possano contenere chissà quali incredibili sorprese. E non soltanto nella gadgettistica minuta si è andati avanti così, ma per esempio pensate un pochettino alle automobili, ha fatto abbastanza scalpore il fatto che negli ultimi film una celebre marca di automobili tedesca avesse in qualche modo appaltato il parco macchine di James Bond, però è sempre stato così fin dall'inizio, insomma, lo sappiamo, la mitica Aston Martin, poi la Lotus, ci sono state effettivamente tutta una serie, persino, qualcuno di voi lo ricorderà, ci fu persino un modello di Diane, che è esattamente, che non diremmo mai una macchina da 007, però veniva usata in una sequenza spettacolare di Solo per i tuoi occhi, e uscì questo modello all'inizio degli anni 80 che aveva riprodotte sulle portiere dei finti buchi di proiettile, perché rimandava appunto alla Diane che aveva usato James Bond all'interno dei film. Qui devo dire c'è anche sempre stata una certa democraticità nell'accettare la sponsorizzazione, perché di fatto quasi tutte le marche automobilistiche hanno sponsorizzato o comunque hanno dato il loro marchio all'interno dei film di James Bond. Addirittura in uno degli ultimi film si era parlato dell'utilizzo di una Panda, che poi dopo non avvenne. Essere Bond non si può, però ad avere il suo budget a disposizione nelle sue costose avventure si potrebbe almeno copiarlo. C'è un mondo di oggetti da comprare che fa riferimento all'agente segreto britannico. Sterline per il Bond Tuxedo di Brioni, cardigan Tom Ford da 1.075 euro, costume da bagno grigio perla, collezione 2006 a 65 euro, e per 175 sterline da Locke & Co Hatters in St. James Street a Londra si può ancora comprare il cappello che Sean Connery indossò nel primo Bond. Così veste l'impeccabile agente 007 che prima di uscire dal 1995 non dimentica di mettere al polso un orologio Omega, quello di Casino Royale costa 2.200 dollari. Sean Connery e Timothy Dalton utilizzavano invece un orologio mitico, il Rolex Submariner. A questo punto l'aspirante Bond ha bisogno di una macchina. Per chi ha 5 milioni di euro da spendere va all'asta il 27 ottobre a Londra l'Aston Martin DB5 grigia guidata da Sean Connery in Goldfinger. Costa invece appena 130.000 dollari la BMW Z8 guidata da Pierce Brosnan in Il mondo non basta. A tavola caviale beluga, Don Perignon e ovviamente Martini. Se poi si vuole provare proprio tutto della vita della spia, fra pochi mesi si potrà acquistare per 55.000 euro Jet Pack, uno zaino jet come quello di Connery in Thunderball. Ha un motore da 200 cavalli, pesa 115 kg, con un pieno potrà fare 50 km in 30 minuti. Imitare Bond per le cose che ha, per i posti che frequenta, per i drink che preferisce, perché Bond è un archetipo di uomo vincente, ma non solo. Sentiamo Giuseppe Di Piazza, direttore di 7, il magazine del Corriere della Sera. James Bond è un po' l'uomo che tutti noi avremmo voluto essere, quindi più che un archetipo è il modello totale di ispirazione per intere generazioni maschili. È l'uomo che non deve chiedere mai, è l'uomo che ha la battuta pronta sempre, che conosce le cose migliori da scegliere nei migliori ristoranti del mondo e sa affascinare le migliori donne del mondo. E poi è un vincente, uno che alla fine ce la fa sempre. E questo più che è un sogno veramente comune, maschile, di tutti i continenti, forse anche alla base del successo di un personaggio così antico oramai creato da Fleming. Ma io penso che 007 sia l'eroe più accessoriato della letteratura, cioè poi anche il cinema lo ha reso ancora più accessoriato. Ogni sua cosa è ben scelta, ogni sua parte, ogni suo oggetto che ha addosso, che sceglie, che usa, è frutto alla fine in cinematografia di un contratto pubblicitario, quindi questo per dare l'importanza proprio dell'uso che lui fa degli oggetti, diventano modelli di comportamento, di scelta, sono invocazioni di stile. E io insomma ricordo sicuramente i suoi orologi multiuso negli anni 60, ma poi ricordo le automobili che ha sempre avuto, ricordo la sua capacità di riconoscere un buon vino e di saper scegliere il migliore champagne e di indicare a qualunque barman in qualunque latitudine come si fa il suo cocktail. Il nostro amico immaginario ha nel mondo milioni e milioni di fan, di età anche molto diverse, ed è cosa nota che i fan, quelli più accaniti, che non si limitano a leggere i libri di Fleming o a collezionare i film della saga di James Bond, hanno spesso fantasia e operosità per il loro idolo. Con Bond, un altro sentimento dominante, infatti, oltre alla sopracitata invidia, è quello del desiderio di emulazione. Anche per questa ragione, due fan italiani, Luca Bonaccini e Pietro Carlo Ferrario, hanno dato vita a un progetto denominato Bond Point. Si tratta in sostanza di una guida e di un club che raccolgono i luoghi di culto frequentati da 007 nell'arco di 50 anni. Luca Bonaccini, nella vita barman e sommelier. È un network che ci siamo inventati leggendo i romanzi di Fleming e dei prosecutori, cioè gli scrittori che sono venuti dopo la morte di Fleming, che sono stati autorizzati dalla famiglia a continuare a scrivere del personaggio 007. E in più abbiamo visto un pochino tutti i film, analizzandoli fotogramma per fotogramma, e ne è nato una banca dati molto, molto corposa di tutto ciò che è stato bevuto, mangiato nei film e nei romanzi e tutti i luoghi del piacere che sono stati visitati da 007. Sono tutti locali molto, molto vecchi, molto antichi, c'è il Danieli di Venezia, c'è lo Splendido di Portofino, il De Russi di Roma, il Principe di Savoia di Milano, tutti i locali che sono quasi sempre alberghi, 5 stelle lusso, che c'erano negli anni 50 e quindi erano menzionati già all'epoca come templi del buon bere e del buon cibo. E quindi poi dopo sì, da lì è nata questa guida e poi una piccola raccolta di ricette e adesso teniamo vivo il circuito realizzando occasionalmente qualche evento come quello dell'anno scorso che abbiamo fatto a Modena sui drink dei cattivi, per non parlare sempre del solito buono, del solito Bond. Vivere come Bond, l'aspirazione magari fantasiosa ma divertente di tanti fan, ovviamente soprattutto maschi. Luca Bonaccini e Pietro Carlo Ferrario hanno coniato anche il termine Bond Vivre, vivere alla Bond. Cosa bisogna fare o essere per rientrare in questo stile? The lady will have a Bacardi on the rocks. For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred. Bond Vivre tutto sommato è molto democratico. Io sono assomiglio come diciamo dimensioni, come fattezze più a Emilio Largo, no? E più Adolfo Celi. Invece il mio socio è più Bond come diciamo physique du role. E quindi deve essere ovviamente da un circuito e un progetto e un modo di vita un po' aperto a tutti, molto democratico, però ovviamente bisognerebbe avere attenzione un po' nel vestire, nel proporsi, nel comportarsi anche nei confronti di una signora, insomma, che è un po' quello che fa sempre Bond nei romanzi e nei film, sempre tutto ciò con una certa ironia. We'll be right back. se non possiamo proprio vivere come Bond, possiamo almeno ripercorrere alcune delle località visitate dal nostro amico immaginario, soprattutto in Italia, citata spessissimo nelle pellicole della saga, da Venezia a Cortina fino alla Costa Smeralda. Ancora Luca Bonaccini. Ci si trova al nord, direi sicuramente Cortina, che è una delle città, delle località diciamo più bondiane, e lì non si può mancare di andare all'hotel Miramonti, che è uno splendido esempio di hotel inizio secolo, che è rimasto immutato nel corso degli anni, dove tra l'altro sono stati ospiti pazzeschi da Brigitte Bardot a Errol Flynn, presidenti americani, cioè, e tra i quali anche appunto Roger Moore, che ha una sua stanza dove ha soggiornato mentre giravano il film. Poi c'è Venezia, la città assolutamente più bondiana, sono stati girati oltre 3 film della saga e anche recentemente l'ultimo, il penultimo, che è Casino Royale. Ecco, quindi l'Italia esce prepotentemente insomma nei film di Bond. Un'occhiatina anche si potrebbe dare al Cala di Volte, all'Hotel Pitrizza a Porto Cervo, dove anche lì sono girate scene importantissime che rimangono nella storia, quando la Lotus usciva dall'acqua, la Lotus subacquea usciva dall'acqua e passando per la battigia sotto gli occhi attoniti dei bagnanti, senza poi voler pensare alle ultime scene girate sul lago di Garda, dove tra l'altro ho partecipato anch'io, nell'ultimo film della saga Quantum of Solace, il lago di Garda, che è stata location insieme a Siena, italiana insomma, con tutti i crismi, cioè una location importante appunto dell'ultimo film, dove sono stati mesi e mesi a girare, dove si vede l'Italia proprio forse tra le più belle insomma. Il mondo dei fan dell'agente segreto britannico James Bond è ricchissimo e in Italia c'è una vera e propria schiera di appassionati di 007. Edward Cofrini, albergatore, ha scritto ben 7 libri su Bond e ha fondato uno dei principali club dedicati alla creatura di Fleming. Colleziona oggetti alla 007. Il più prezioso è sicuramente l'orologio, il Submariner, quello che usava Sean Connery nei primi 4 film, omaggio del regista Terence Young. A lui, beato lui, l'ha regalato Terence Young, io me lo sono dovuto comprare al mercato dell'antiquariato di Parma, dove fece una galleria di oggetti su Bond. L'amico immaginario. Bentrovati all'amico immaginario. Ero molto curioso di conoscerla. Vesper mi ha parlato tanto di lei. Se non si fosse suicidata, avremmo preso anche lei, Bond. Ci vuole dire per chi lavora? La prima cosa che deve sapere di noi è che abbiamo uomini da ogni parte. Pensavo di potermi fidare. Ha detto che non era spinto dalla vendetta. Sono spinto dal mio dovere. È talmente accecato da una rabbia disperata che non le importa chi ferisce. Quando non si distingue tra amici e nemici, è ora di ritirarsi. Non deve preoccuparsi per me. Limitate i movimenti di Bond, bloccate tutti i suoi passaporti. Prendetelo. Quanto manca? 30 secondi. Non ci resta molto tempo. Quello che avete appena sentito era il trailer dell'ultimo Bond visto al cinema, Quantum of Solace, con Daniel Craig, 007 molto apprezzato dai fan. Bisognerà aspettare per un altro film su Bond, perché la produzione della 23esima pellicola della serie è stata sospesa per i problemi finanziari della MGM. La passione per un personaggio della letteratura, del cinema o della TV scatena iniziative, mostre, itinerari tematici. Nel caso del nostro amico immaginario di oggi, James Bond, per citare una delle tante notizie del genere, l'iniziativa Prossima Avventura è la creazione del Museo delle Auto di Bond, esattamente il Gensler Design Museum of Bond Vehicles. Sarà aperto nel 2012 a Moments, Illinois, piccola cittadina a 50 km da Chicago e sede della Fondazione Ian Fleming. Di sicuro milioni di appassionati ci passeranno per dare un'occhiata. A un super fan, Edward Coffrini Dall'Orto, autore di 7 libri su 007, fondatore di uno dei principali fan club italiani, chiediamo come nasce una passione così forte. Nasce con una macchinina, la DB5 della Corgi Cala 143, con la quale un mio vicino di casa faceva le gare in cortile e vinceva sempre, gare di macchinine, e questa qui era imbattibile. Da lì poi nasce Roger Moore con Attenti a quei due, Il Santo, mi portano i miei genitori al cinema a vedere James Bond, La spia che mi amava, niente, scoppia l'amore. Infatti l'altra domanda che probabilmente mi farai è: qual è il tuo Bond preferito? Il primo amore non si scorda mai, quindi ti dico subito Roger Moore. Goldfinger. Molti comici raccontano che per creare le parodie di personaggi famosi al meglio, in fondo c'è sempre un po' d'amore per questi stessi personaggi, e i comici, anche quelli italiani, si sono spesso esercitati nel parodiare l'agente 007, ad esempio il duo comico Lillo e Greg. Il mio nome è Bond, James Bond. Cognome? Bond. Bond. Signor Bond, James Bond, Bond. Che cazzo di nome? È nato, eh? No, io dico il mio nome è Bond, James, però sarebbe James Bond. James Bond, cognome? Bond. Ah, James Bond, Bond, solo un James e due Bond. Dove un James del nome, un po' del nome e un po' del cognome. È nato, eh? No, allora... partiamo dal cognome. Sì, Bond. Bond, cognome? James, James Bond. James Bond, Bond, solo due James e due Bond. Dove un James del nome, un po' del nome e un po' del cognome. È nato, eh? No, allora guarda... Allora, cominciamo dal nome. Un momento. Dal cognome? No, prima... No, dal nome è meglio. No, faccio mettere locale... Dal cognome. Un secondo solo. Dal nome? Dal cognome? Un attimo. Dal nome? Ancora? Allora, io faccio, il mio nome è Bond, dovrei dire il nome è James, James Bond, invece dico il nome è Bond, il cognome è Bond. Io come mi chiamo? Bond, James. Ah, è James Bond. Cognome? Bond. Il Bond, scritto bene prima, James Bond, non lo cognome, ecco, eh? Ma un comico italiano di grande popolarità in passate edizioni di Zelig ha costruito molto del suo successo su una parodia proprio di James Bond, e Fabrizio Fontana, alias James Stunt, uno 007 lanciato in mille avventure, tutte però con un risvolto comico e surreale. Mi interessava da comico svolgere una funzione più attoriale, quindi solitamente il comico da solo è, tra virgolette, costretto a fare dei monologhi, mentre a me piaceva interpretare attorialmente delle situazioni. Per cui James Bond, nelle sue varie avventure, era il più indicato, poi trasformandolo in tonte, erano un po' più goffe, ma comiche. Questo è un grande ritorno, anche lui quest'anno ha avuto altro da fare, è stato in giro per il mondo, per grandi imprese, è l'agente segreto più, non mi viene l'aggettivo, non lo dico neanche, più segreto del mondo, è sconosciuto anche a se stesso. Signori, lui è James Bond! Sono tornato! Allora, attenzione, Tonti in banca, Mission Impossible. Ok. Ma prima ci vuole la parola d'ordine. Giusto. Potrebbe essere un milantatore. Chi fa da sé? Non ha la donna! Sostanzialmente era nato come... cioè un sonoro della tapparellina che gli copriva la faccia, in modo tale che lui naturalmente si nascondesse dietro le mani. Poi però, per umanizzarlo, ho iniziato a declinarlo, perché è... per la mia sensibilità artistica, asettico, mentre il fatto di poter declinare fu stupore, piuttosto che fu interesse, eccetera eccetera, lo rendeva ancora più tenero e umano, come sono le mie caratteristiche, insomma. Per prendere in giro uno come Bond bisogna, abbiamo detto, un po' amarlo. E anche il caso di Fabrizio Fontana, che ha ricordi particolari di un Bond cinematografico e di un suo nemico specifico. Mi ricordo ancora delle scene di James Bond quando lo faceva Roger Moore. Bello, mi piaceva come James Bond, lo vedevo adatto, ad hoc. E mi faceva troppo ridere, mi ricordo ancora, credo che si chiamasse Squalo, uno dei cattivoni, un servo dei cattivoni, che aveva i denti d'acciaio, e lui per batterlo aveva preso una mega calamita e gli aveva calamitato i denti appendendolo. Non possiamo esimerci dal quesito dei quesiti, quello che per tutti gli appassionati di 007 è l'argomento principe irrisolvibile. Qual è stato fino ad ora l'interprete migliore di James Bond? Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan oppure il recente Daniel Craig? Sentiamo Giuseppe Di Piazza, direttore di 7. Ma adesso l'ultimo mi piace molto. Craig mi pare un grandissimo attore che dà una luce sinistra al personaggio. Il Bond originario nel primo libro di Fleming, Casino Royale, è un eroe che ancora non ha deciso se di essere un eroe buono o un eroe cattivo. È un eroe in bilico, con un confine morale molto molto labile fra il bene e il male. E Daniel Craig, secondo me, restituisce questa incertezza al personaggio. Poi, vabbè, il più amato per me è stato Sean Connery, il Bond della mia gioventù, forse il modello per tutti, per come lui indossava lo smoking, forse nessun altro al mondo. E allora parola alla gente, quella che intercettiamo per le strade, con la stessa domanda: qual è il vostro Bond preferito di sempre? Per me James Bond è solo Sean Connery, non esistono altri James Bond. Sean Connery, perché è il primo, perché è quello con più classe, più fascino ed è assolutissimamente il più adatto. Pierce Brosnan, perché ha questo fascino enigmatico molto intrigante. Sean Connery, indubbiamente, perché è un carisma unico che nessun altro è riuscito a copiare, forse perché è il primo e anche l'ultimo nel suo stile, ecco. È Sean Connery, il James Bond classico della mia gioventù. Sean Connery per quel fascino proprio senza tempo. Roger Moore, perché rappresenta meglio l'essenza del personaggio. Sean Connery, perché per me è più bravo e anche più bello. Quindi posso rispondere, perché io il cinema non ci sono mai andata. E poi li hai visti in televisione? Non li vedo mai. Dopo il sondaggio, un altro misuratore importante di popolarità, non dei singoli attori, ma del nostro amico immaginario in generale. Basta un computer collegato a internet e un motore di ricerca. $15,5 milioni di risultati. Non male per l'agente segreto più famoso al mondo, alla prova della ricerca su Google. 007.com.info, 007italia.org, mi6.co.uk, che si definisce il sito non ufficiale più visitato al mondo. E ancora, ad opera dei fan, James Bond Web Italia, jamesbond.tv, James Bond Multimedia e bondmovies.com. Si potrebbe andare avanti ore elencando siti di fan e raccolte di informazioni, comprese quelle che raccontano come si fa a vivere e viaggiare come l'agente segreto al servizio di Sua Maestà: jamesbondlifestyle.com, beingjamesbond.com e jamesbondwatch.org.uk. 500 le pagine a nome Bond su Facebook, da segnalare quella che ha per titolo "Odio quando vengo mandata a uccidere Bond e finisco a letto con lui". Per chi preferisce i libri, ianflemingfoundation.org. Per chi vuole ridere, invece, si consiglia un salto su YouTube. Fra i 312,000 risultati alla voce Bond, anche la parodia di Goldfinger, firmata Marcello Cesena e Maurizio Crozza. La trovo in ottima forma per un uomo della sua età. Davvero? Lo pensa realmente? Ne sono convinto. Scommetto che dice così a tutti i cattivi che incontra. No, non l'ho mai detto a nessuno. Lei è il primo. Lei mi confonde, Bond. Mi confonde. Pronto, Unimex? Qui James Bond, passo. È tutta la mattina che ti sta cercando. Dove eri andato a nasconderti, James? Stavo tornando sopra un vecchio caso. Ah, così sarei un vecchio caso, eh? Shh, è l'ufficio. Digli che sto arrivando. E invece non stare. Silvia, per favore, faremo un'altra gita molto presto. Figurati, l'ultima volta che lo hai detto te ne andaste in Giamaica. E non t'ho più visto per 6 mesi. Sarò lì tra un'ora. Glielo dirò. Ehi, quel vecchio caso sembra interessante, James. Allora facciamo fra un'ora e mezza. Non hai più fame? E con questo è tutto. Un saluto da Giovanni Savarese e al prossimo incontro con l'amico immaginario.